Piacere di vedervi qui, ragazzi. Vedrete un po' di sangue stasera. Allora spero che ce ne sia un bel po' di sangue. Vittime del sistema, ma non ci fate nessuna pena, nel vostro